pillola rossa ritorna. Ritorna la musica italiana, ritornano le pillole rosse da ingoiare. Ritorna ogni mercoledì, sempre 20 e 30, che la realtà, così com'è, non sempre si comprende appieno. Girano un sacco di pillole blu, perché si sa, la pillola blu è più buona, dolce, costa meno e va giù meglio. Ma dopo, a lungo andare, ne vuoi di più. Perché la mala informazione è una droga che ti punta, porta dove vuole lei. Pillola rossa, ritorna. Già so, nella latrina sgorgante cadaveri non eccellenti però, sorgon domande ma niente risposte, ma poi mercoledì viene dall'etere sì. Pronto lo stomaco, pronto a ingoiare, pillola rossa, pillola, pillola rossa, pillola, pillola rossa, pillola, pillola rossa. Pillola. Non sono io a non essere credibile, non sono io a dovermi giustificare. Voi rinchiudete la gente, la fate ammattire nelle fabbriche, negli ospedali, nelle caserme. Io creo sogni, voi li uccidete. Io parlo sboccato, voi nemmeno parlate la nostra lingua. Ci lasciate ai bordi, ci fate vedere donne che non potremmo avere, posti dove non potremmo entrare, cose che non potremmo comprare. Non siete diversi da noi, ladri e puttane vestiti bene. Voi ci rubate il tempo, che è l'unica cosa che abbiamo. Ci insegnate a tradirci e a non fidarci più l'uno dell'altro. Voi spacciate certe droghe nelle farmacie e ci arrestate se ne vendiamo altre. E noi ve lo lasciamo fare tutto questo, perché nella vita non c'è mai scelta tranne che in certi campi, ma mai in quelli importanti. Ma io non voglio essere un prodotto del mio ambiente, voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. Nei locali della zona autonoma Milano, dagli studi di Radio ZAM, grazie al supporto di A Club Unit, trasmettiamo in diretta la 13ª puntata di Pillola Rossa. Nettuno e Belluno ai microfoni, squadra tecnica in studio. Belluno! Nettuno! Io sono il diavolo, portare rispetto, minuto di fuoco e di guai. Sappi una cosa, nessuno è perfetto, e Dio chi si crederà mai? Di tutto il creato, io sono il maledetto, io sono lo sceno, il demonio che so. Io sono il diavolo, dimoro qua sotto, lontano da perdono e pietà. Io sono un porco vizioso, bastardo e corrotto, io sono l'immoralità. Baleno e serpente sono il mio diletto, e di malvagità ne faccio virtù. Alla santa bontà, e io scorreggio saette, sono fiamme serrotto, lo senti il mio odore, sono qua. Di tutto il creato, io sono certo il più brutto, io sono l'infame chiodo piantato in Gesù. Io sono il diavolo, dimoro qua sotto, lontano da perdono e pietà. Io sono un porco vizioso, bastardo e corrotto, io sono l'immoralità. Veleno e serpenti, sono il mio diletto, faccio virtù. Dall'arena di Santa Giulia piove dal tetto. Questo è il bollettino delle Olimpiadi, bollettino di guerra, no, delle Olimpiadi. Sì, allora ripetiamo, sì, scusa Mary, dall'arena di Santa Giulia piove dal tetto. E ti interrompo, dal villaggio Lincoln i canadesi se ne sono andati. Se ne sono andati, hanno detto tutto fa schifo, in un hotel 5 stelle, non va bene, non va bene. Ma invece dall'arena di Roci stanno annunciando che un allenatore addirittura allena 13 atleti di 13 nazionalità diverse. Non abbiamo capito in che disciplina. In pattinaggio? Penso pattinaggio, ci dicono qua dall'arena di Ro forse. E abbiamo un altro responso dal bollettino della Zecca, che sono un po' in crisi perché 130.000 euro a medaglia d'oro per l'Italia, siamo un po' sotto. Nel frattempo sono stati esclusi il Sudafrica e sono stati esclusi i russi, mentre Israele continua imperterripa a partecipare ai giochi olimpici. Israele! Sarei meno antipatico se fossi più simpatico. Sarei meno antipatico se fossi più simpatico. Sarei... cosmetico, cosmetico. Amo la Bibbia, la Libia, la Fibbia, delle scarpine, delle donnine carine, cretine. Sono un uomo grazioso e bello, sono un fortunello, sono un uomo ardito e sano. Sono un aeroplano, sono un uomo assai terribile. Sono un dirigibile, sono un uomo e vado al culmine. Sono un parafulmine e gira e fai la ruota di come sono se idiota. Se fossi più simpatico sarei meno simpatico. Se fossi più simpatico sarei meno simpatico. Se fossi più simpatico sarei meno simpatico. Se fossi più simpatico sarei meno simpatico. Se fossi più simpatico sarei meno simpatico. Se fossi più simpatico sarei meno simpatico. Se fossi più simpatico sarei meno simpatico. Se fossi più simpatico sarei meno simpatico. Sono un uomo eccezionale, sono un figlio naturale. Sono l'uomo della riserva, sono il figlio della serva. Sono un uomo senza boria, caffè con la cicoria. E se non mi capite, sono una polmonite. Se avessi un po' di pane, mi mangerei salame. Se fossi una badessa, vi mostrerei la cosa. Se fossi una ciociara, la venderei più cara. Ma poiché non sono niente, sono un respingente. Sono un uomo che poco vale, sono neutrale. Sono un uomo della Lega, e chi se ne stropiccia. Sono un uomo di Istanbul, sono un paraful. Sono un uomo dei più cretini, sono Petrolini. E gira e fai la rota di come sono idiota. E gira e fai la rota di come sono idiota. Sono un uomo grazioso e bello, sono fortunello. Sono un uomo ardito e sano, sono un aeroplano. Sono un uomo assai terribile, sono indirigibile. Sono un uomo e vado al fulmine, sono un parafulmine. Sono grazioso e bello, sono un fortunello, sono un uomo ardito e sano, sono un aeroplano, sono un uomo assai terribile, sono indirigibile, sono un uomo e vado al fulmine, sono un parafulmine, sono un uomo grazioso e bello, sono un fortunello, sono un uomo grazioso e bello, sono un fortunello, sono un uomo grazioso e bello, sono un fortunello. Allora, grazie ai tre allegri ragazzi morti che ci hanno deliziato con Fortunello, mentre prima abbiamo ascoltato The Bond Machine, Io sono il diavolo. Yeah. Come saremo tra 50 anni? Avremo imparato a vivere in simbiosi con la natura o continueremo a sfruttarla in maniera disumana? Prendersi cura della natura vuol dire prendersi cura dei suoi frutti. Noi di Epicorp non utilizziamo né diserbanti, né pesticidi, né uranio impoverito. E voi direte, beh, chi usa l'uranio impoverito? Nessuno. Infatti, la nostra mission è portare la nostra qualità intatta sulle vostre tavole. Come vi sentireste dopo 20 giorni ammassati in un container, senza vedere la luce del sole, senza poter bere, senza poter parlare con i vostri cari? È disumano, vero? Beh, allora perché accettiamo che la nostra frutta, che consumiamo quotidianamente, subisca questo trattamento infernale come se fosse un migrante climatico qualsiasi? Vi presentiamo Avocado in Business, la linea premium di avocadi della Happy Corporation. Quante volte mangiando un avocado avete pensato troppo maturo, troppo acerbo, un giorno in più e sarebbe stato perfetto? Con AIB i nostri avocadi viaggiano nelle migliori business class della Happy Airlines, garantendo a ciascuno di loro il massimo del comfort. Bene ragazzi, posso portarvi qualcosa? Volete vedere un film? Forse L'Avocado del Diavolo? 40 avocadi ogni aereo, un aereo ogni ora, per un totale di ben 960 avocadi consegnati ogni giorno in Europa. Ovviamente tutto certificato bio, perché il rispetto per l'ambiente passa anche dal viaggio. AIB, Avocado in Business. Meglio 20.000 km in business che un chilometro zero in economy. Olimpiadi Milano Cortina, prima il bollettino che abbiamo ascoltato con i fatti della settimana e adesso le note dolenti, ovvero allora i 18.000 volontari delle Olimpiadi Milano Cortina dovranno preoccuparsi dell'alloggio. Lo si sapeva dal momento in cui la Fondazione Mico ha lanciato il bando per la raccolta delle offerte di disponibilità. Quindi cosa hanno chiesto? Hanno chiesto di portarsi il sacco a pelo sostanzialmente. Wow. Visto che sono volontari e un po' non portano niente, schiavi, nessuno devono schiavi. E niente, devono portarsi il sacco a pelo. Trainati da una grande pubblicità di volontariato di Yannick Sinner, che anche lui si è venduto se è nominato volontario, però lui dorme in hotel chiaramente. Ci saranno quindi al massimo delle brandine, consigliano anche il cuscino e colazione, no, non c'è neanche la colazione, quindi autonomia sulla colazione, grande autonomia e niente, magari forse pranzo e cena e niente, però ovviamente tutti vestiti. Scusa, ma mi sembrava che mi avessi detto prima che, visto che queste Olimpiadi sono disertate dal grande pubblico, praticano 300 euro di prezzo al biglietto e via dicendo, questa macchina infernale, sembra che nessuno vada a vederli ed è successo, cioè non ci sono spettatori e quindi cosa Beh, succede? Ci sono spettatori perché il biglietto, stavo parlando appunto con un amico appassionato di hockey, grande appassionato che gioca lì al palasesto insomma, e ovviamente qua la migliore occasione per vedere il numero uno dell'hockey con le Olimpiadi. Apro e chiudo una parentesi, l'Olimpiadi da così com'è nata doveva essere un evento a cui partecipavano atleti non professionisti, questo vuol dire atleti che non guadagnano, cioè non hanno una fonte di guadagno per quanto riguarda l'attività sportiva che fanno. Lo spirito olimpico che ovviamente è andato negli anni a venire è un po' venuta meno. Il caso dell'hockey è un po' il più eclatante perché negli Stati Uniti e in Canada un giocatore di hockey guadagna più o meno come un calciatore qua, probabilmente un calciatore e famoso. Un giocatore di hockey qua guadagna più o meno? Allora, i giocatori della squadra italiana in realtà la metà giocano fuori, cioè italiana, poi dico sono italiana di senza GL perché il campionato italiano in realtà è il campionato che si gioca un po' tra il Tirolo, da quelle parti lì, tra Italia e Svizzera, Austria, insomma le squadre italiane sono tutte più o meno lì, cioè il portiere dell'Italia gioca in Svezia. Ha fatto una distesa di cemento e l'hanno chiamata Olimpiade. Altro discorso su questo: se calcolato degli investimenti sono più o meno un 3 miliardi, dai 3 ai 5 miliardi, di questi 3 ai 5 miliardi quelli spesi per le attività sportive sono tipo un quinto, quindi tutto il resto, ponti, strade, case e vari bustine. Ragazzi, questo è... E chiudo, cioè mi... Finisco con il discorso biglietti che avevamo iniziato. Visto che non ci andava giustamente nessuno, da questo mio amico di Oca, appunto, che si lamentava che era andato a vedere Italia-Svezia, non c'era pubblico, sti cazzi, costava 280 euro il biglietto, quindi ovviamente non c'è pubblico. E cosa hanno fatto? Hanno proposto ai volontari o ai lavoratori, gli hanno dato questa occasione, lavoratori, schiavi, di comprare i biglietti a 26 euro rimanenti. Ragazzi, Pillola Rossa vi fa vedere tutte le sfaccettature della realtà e sono cazzi dei vostri padiglioni auricolari. Io chiederei ad Alex della Iglesia di introdurre lo sprofondo. I 26 euro, lui ne mette un po' di più. 380. Por favor, topini della notte, come state? Tienimi gli occhiali, Antonio. Allora, non so da dove iniziare, non sarà un video come gli altri. Non posso parlarvi di luoghi misteriosi, fantasmi, niente del genere. Oggi vi parlo di un problema reale, imminente, che ci riguarda tutti e tutte. Le forze del male stanno avanzando. Stanno vincendo i cattivi. Non serve essere un medium per capirlo, basta vedere la TV o i social per sapere che la situazione peggiora di giorno in giorno. Io finora, come voi, pensavo che le cose sarebbero migliorate da sole, però no. Non si sono risolte per magia, perché quello che sta succedendo non è solo una coincidenza. fa tutto parte di un piano organizzato da persone molto potenti. Antonio, tieni, continua la diretta. Vediamo come ve lo spiego. Penserete a un complotto internazionale per dominare il mondo? Sì, esatto. Questa è la realtà. So che sembra uno di quei brutti film dell'orrore, ma vi assicuro che è vero e io non mi fermerò. Io non mi rassegno. In questo frangente ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie, capaci di lottare contro il male. Loro sanno come fare e combattono. Andiamo. Sì. Questo è il blues di Gundabad, Gundabad, Gundabad. Non c'è Dio, non c'è più speranza, manca il lavoro e poi manca il decoro. La gente sogna il jackpot, poi muore alle slot o dal compro oro. Perdono i denti a sorsi di vino scadente bevuto attaccata ai cartoni, mentre lo zingaro con le stampelle fa la pesca magica nei secchioni. Sbirri che fanno le ronde, soldati in assetto di guerra, figlie, figliastri, cani randaggi, sorci, che posto di merda. Tutti coatti, tutti imbruttiti, ma tutti che poi aspettano in fila per un biglietto che porta fortuna e che grattano zitti con la monetina. Banalità, mediocrità, somministrate come medicina. Sognano spiagge bianche, con gli occhi crepati dalla cocaina. Pensieri malati, cattivi, torturano come aguzzini. Mentre la roba da mocca è tornata di moda al giro fra i ragazzini. Cecità bianca come sta società, preda all'anaffettività. La tua faccia stanca, davvero pensavi che fosse la pubblicità, la notorietà, la celebrità. E io che penso questo mondo è brutto, questi pischelli non sanno più scrivere, taggano male, baitano tutto. È come un lutto, genera mostri enormi fuori dalla ragione. Parlano e pensano male, vivono peggio senza una vera opinione. Schiumano rabbia, strillano in faccia questa famiglia tradizionale, col marito che ammazza la moglie di botte prima del telegiornale. Tu spara al nemico, spara ai barconi, spara addosso agli altri, mentre vivi una vita di merda con tanto d'inchino per ringraziarli. Poi mettiti in fila, fatti una riga, convinciti che puoi salvarti, mentre la vita di merda che vivi se la spartiscono ai piani alti. Questo è il blues di Gundabad, Gundabad, Gundabad. Canta adesso che poi te ne va. Questo è il blues di Gundabad, Gundabad, Gundabad. Palla in mezzo a noi con gli Urukai. Sì, questo è il blues di Gundabad, Gundabad, Gundabad. Canta adesso che poi te ne va. Odia quelli che chiama ricchi. Io mi chiedo che cosa succede in segreto fra lui e i suoi commilitoni. Padri padroni, figli di mamma, uomini tutti di un pezzo, fieri di quello che c'hanno nei pantaloni e conoscono solo il disprezzo. Sognano il ratto delle Sabine, ma sono dei ratti di fogna. La famiglia perfetta delle figurine mette la sposa alla gogna, ed è una stronza se non ci sta, ma per una zoccola se te la dà. Tutto settato intorno a un concetto sbagliato e malato di virilità. Tutto è soltanto uno sfogo e parlano ancora di contronatura, caccia di streghe per fare un rogo. Io ci sputo su questa cultura, la tradizione del maschio che ficca mentre la femmina deve sta zitta. Tu che ridi, io che piango e penso è solo un'enorme sconfitta. Ma il generale della minchiadura parla a rotella e poi spara a razzo. Cazzate sulla razza italica e tratti somatici di sto cazzo. Decima mas, tutti contenti, fuori puliti ma dentro so sporchi. Benvenuto fra gli Urukai, Gundabad, terra degli orchi. Questo è il blues di Gundabad, Gundabad, Gundabad. Canta adesso che poi te ne vai. Questo è il blues di Gundabad, Gundabad, Gundabad. Palla in mezzo a noi con gli Urukai. Questo è il blues di Gundabad, Gundabad, Gundabad. Canta adesso che poi te ne vai. Questo è il blues di Gundabad, Gundabad, Gundabad. Noi con gli Urukai. Buonasera, generale Vannacci. L'uomo e la donna non sono uguali. Ma no, ma non è vero. Se io cominciassi a pensare come una donna, diventerei gay. Ma non esiste, no, non credo. No, no. I gay dovrebbero farsi un canale televisivo loro, perché, se li vedo su Rai 1, poi magari mi viene la voglia di comprare quegli slip in latex. Vabbè, ma... con la cerniera cromata davanti. Che ne sa lei, scusi? Che li vendono di due taglie, M e XL. Addirittura. Vabbè, sì, immagino. Ma la M ha le cuciture che prudono, quindi... Vabbè, sì. Vabbè. Quindi meglio la XL. Ma senta, sì, però non è vera questa cosa. Io sono favorevole alla caccia, perché tutti gli animali possono cacciare. Ma che c'entra? Non... Invece proibiamo la caccia agli uomini, ma la consentiamo agli animali? No, ma se non si tratta di consentire... E allora perché non mettiamo dei carabinieri nella savana che arrestino i giaguari? Cosa? No, non sono riuscita a vederla perché era troppo protetta. Però noi non gli facevamo nulla, volevamo sapere quel che già è successo. E si poteva anche evitare. Noi siamo persone, non pecore, quindi magari una passeggiata vicino a noi questo sia... Poi dico, mi diranno che voglio fare i miei scoop. La Meloni doveva stare in mezzo alla gente come ha fatto a Bologna quando c'è stata l'alluvione. Siamo persone, siamo state schiacciate dalle forze dell'ordine come animali, come bestie. Questi trattamenti non vanno, non siamo in dittatura, non esiste il re e la regina. Siamo uomini liberi. Un grande saluto alla Meloni che ci ha trattati come pecore. Grazie. Non è stato Stefano Macar, qui in Bautale. Vergogna! Vergogna! Pillola rossa. Buongiorno a tutti. Io sono il rappresentante delle forze dell'ordine, esclusi i pompieri. Come sapete, purtroppo per noi non sono tempi facili. Già dal G8 del 2001 la nostra popolarità è fortemente calata e con l'avvento dei social network le difficoltà sono aumentate giorno dopo giorno. Cucchi, Aldrovandi, la caserma di Piacenza, lo stupro da parte dei carabinieri di Firenze. Ci avete accusato di essere sadici, violenti, picchiatori, corrotti, stupratori, addirittura assassini. Sfracelleresti mai il cranio a tuo cugino con una zampa di maiale? No. Appenderesti mai una vecchietta per i piedi ad un elicottero? No. Strapperesti mai le orecchie ai tuoi negozianti di fiducia? No. Scaricheresti mai un film da internet? Sì. Scaricare un film da internet è reato? E me hai detto sì. Hai detto sì? Hai detto sì? Ah, sì. Avevo sentito, scusa. Ciao, sono la Lega. Ciao Lega. Niente, noi avevamo una certezza, che odiavamo i terroni e poi abbiamo chiesto i voti al sud. Poi l'Europa no, poi l'Europa sì. Draghi è cattivo, Draghi è buono. Poi è arrivato il Covid, prima c'è, poi non c'è, poi c'è un po', sulla mascherina, giù la mascherina, apri tutto, chiudi tutto. Ma adesso qual è la vostra posizione? Ma non lo so. Prova a fare uno sforzo, ti sarà rimasta un po' di coerenza, no? Vabbè sì, odiamo ancora i negri e i froci. Bravo. Bravi. Grazie. Fin qui il trattato sui leoni. E io come un leone voglio difendere la famiglia tradizionale dal femminismo, che è stata la prima istituzione a demolire il concetto di famiglia tradizionale. Ma non è vero. Ma soprattutto voglio... La voglio difendere dai branchi di froci. No. Che la vogliono annientare. No, ma non può dire quella parola, no. Lei è gay? Ma cosa le interessano? No, perché se lei è gay io non le direi mai che lei è frocio. Ma cosa c'entra? Io frocio lo uso solo di sponda. Come nel biliardo. Ma che cosa dice? Lo dico al mio amico. Hai visto quel frocio? Ah. Hai visto quel frocio? Ho capito, ma non è non una è scusa. Diretto, è di carambola. No, ma... Vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta, Gino mi aspetta dentro un'alfetta piena di muffa. Vado Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile. Ma dici no, io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa, ci do i miei stessi punti di vista per adesso. Sono gay, non sono gay, non sono gay, sono gay, sono come vuoi, oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei, mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei, sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei, che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai, sono gay, sì sono gay, non sono gay, ma vorrei, ma lo sai, quanti geni d'eroi sono gay, non lo sai, o lo vuoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore, una cosa immorale, o al caso migliore, un giullare fenomeno da paracone. E lo tollererai su un quanto eccezione, lo tollererai su un televisione, lo chiamano gay e tu pensi ricchione. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile. Ma dici no, io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa, ci do i miei stessi punti di vista per adesso mi va. Allora, un piccolo riepilogo dei pezzi trasmessi, delle canzoni, visto che la pillola italiana va anche pubblicizzata d'altronde. E, allora, già detto, ho iniziato con The Bone Machine, con Io sono il diavolo, Tre ragazzi morti, Fortunello, Danno con... non leggo il blues di Gundabad. Ah, ok. E, Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta. La questione, tra parentesi, diciamo anche questo fuori pillola rossa che ha preceduto pillola rossa, perché abbiamo fatto questa pazzia di comunicare anche i pezzi al di fuori della italianità, le nostre quindi... preferenze musicali. E quindi erano i grandissimi Igor con Blast Beat Falafel. Esatto. La questione non è se la libertà della pornografia sia o meno una libertà. La questione piuttosto è che non ci stiamo accorgendo che ormai la libertà sessuale viene identificata puramente e semplicemente con la libertà di produzione, circolazione e consumo della pornografia. Dove l'azione spontanea non esiste nemmeno per chi la pornografia la fa, ci si muove, ci si accoppia, si sorride e si grida e si sussulta cercando di interpretare il gusto medio del cliente senza nome, senza volto e senza storia, che acquisterà la cassetta, il CD o il giornale. Nella pornografia è tutto calcolato, il numero degli orgasmi e le variazioni sul tema, è tutto stereotipato. E questo ci rende più tranquilli. Diciamoci la verità, Sara. I poveri sono la palla al piede della nazione per lo sviluppo dell'umanità proprio. Cosa ne pensi? Sì, allora diciamoci la verità, il povero non è soltanto la palla al piede di questa società, il povero è comunque una categoria che noi dobbiamo sostenere e quindi diventa faticoso anche per un medio ceto o un basso ceto dover sopperire a tutte queste persone che appunto sono sulla soglia di povertà o poveri. Quindi la povertà assolutamente è un fenomeno che sta dilagando anche con tutti questi extracomunitari che ci sono in giro, che noi dobbiamo sostenere economicamente per quanto riguarda i loro figlioli, per quanto riguarda il loro mantenimento. Quindi il povero assolutamente non è solo la palla al piede, è feccia. Il povero non ha nemmeno diritto di respirare la nostra aria. Dovremmo fare sicuramente cittadini di serie A, di serie B, di serie C, di serie D, ma tutti divisi, completamente divisi, perché io sono stufa di dover mantenere e sostenere tutti questi poveri. Abbiamo in diretta una telefonata dalle giardiniere, che stasera è la nostra diretta telefonica. Mi sembra che sia già in linea. Pronto? Ciao. Aspetta, capiamo un attimo le cuffie, il ritorno di cose. Tu ci senti? Io vi sento bene. Perfetto, perfetto, alla grande. Allora, ciao giardiniera, cosa ci dici di bello questa settimana? Ma guarda, vi volevo ricordare il nostro spettacolo di martedì prossimo, che ormai è vicino, il 24 febbraio alle 20:30. Il paesaggio non è residuo, la nostra lettura scenica a cura della compagnia Oies, che attraverso appunto delle letture vi porterà in un viaggio attraverso le meraviglie naturalistiche della nostra città. Molto interessante anche come struttura di spettacolo teatrale, devo dire. E poi adesso siamo pronte anche per la pericena. Abbiamo il 3 marzo, no scusate, mi sono già sbagliata, il 4 marzo. Il 4 marzo ho la pericena di Gala Civile, ovvero vi invitiamo a una pericena di sostegno pensata come un gesto di ospitalità, condivisione e responsabilità civile. Voi sapete che attraverso questi eventi noi stiamo raccogliendo i fondi per sostenere la partecipazione alle azioni legali dei cittadini, in modo che non debbano sostenere loro privatamente i costi degli avvocati. E quindi questa pericena è uno, ancora una volta, uno di quei momenti di raccolta di questi fondi. Quindi un momento conviviale comunque, in cui il cibo diventa anche occasione per riflettere sul valore del territorio, del paesaggio e dei beni comuni. Infatti invitiamo anche un po' tutti i nostri sostenitori che abbracciano un po' questi temi, no? Questa serata nasce anche per sostenere un'azione di tutela ambientale e per affermare un principio semplice ma essenziale: ciò che è di tutte e di tutti va difeso con cura e consapevolezza. E quindi speriamo di avere tante persone che ci raggiungono al nostro apericena. Allora, scusami, ci ridici un attimo il luogo e il giorno di questo appuntamento, giusto per rimembrare? Allora, il 4 marzo alle 18:30 in via Mengoni al 3 a Milano. Ma cos'è, uno spazio, una sala? Sì, è una sala grande dove potremo anche preparare la cena, appunto. Siamo in zona, giusto per pubblicizzare. Siamo in zona Bisceglie. Siamo in zona Bisceglie, ok, quindi è localizzato, insomma, lì dove c'è il misfatto, insomma, in quell'area lì. In quell'area di Milano. Esatto. Ma è una biblioteca, insomma, una sala. Vi vorrei lasciare anche la nostra mail, perché vi chiediamo magari una conferma, perché così sappiamo un po' le persone che vengono per preparare. Allora, se vuoi mandare la mail in diretta, che qualcuno se la scrive o se la segna al volo, giusto? Esatto, io intanto la mando. È giardiniere Milano, tutto attaccato, @gmail.com. Allora, semplice. Poi non dite che Pillola Rossa vi fa vedere solo le cose brutte, la realtà fa vedere anche le cose belle, eh? In padiglioni particolari. No, scusa, ci puoi ridire il primo appuntamento? Il primo appuntamento, martedì prossimo. Uno spettacolo teatrale che faremo ad Alveare Culturale Alveare Culturale in via Carlo Imbonati al 12. Questo invece alle ore 20:30. Qui siamo in zona Maciacchini, direi. Siamo in zona Maciacchini, sì. Sì. Stiamo diversificando gli spazi, perché secondo me questi temi escono dal quartiere di Baggio, no? Sono certo. Milanesi alla fine, quindi vogliamo coinvolgere un po' tutta la cittadinanza e sensibilizzarla su queste situazioni, insomma. Ma direi che adesso questo svolgimento delle Olimpiadi e l'abuso edilizio delle Olimpiadi, a maggior ragione è forse la risposta migliore che si può dare il lavoro che state facendo. Grazie mille. Stiamo facendo un lavorone, devo dire, con la raccolta fondi, perché i cittadini che ci stanno seguendo in questa azione cominciano a essere parecchi. Sì, magari si interessano anche. È interessante come si sta muovendo la base, no? Sì, magari si interessano anche in quello che è la, cioè che non è solo localizzato nell'area, appunto, che avete, diciamo, iniziato questa battaglia, che è il Parco delle Armi, ma ci sono ovviamente tante altre zone a Milano. Adesso leggevo io e ne stavamo parlando in trasmissione l'altro giorno, ho visto i progetti in realtà in rete su queste mega due torri che dovranno fare al Parco Sud, sostanzialmente poco prima di Chiaravalle, tra Chiaravalle e Corvetto, quindi c'è anche lì un comitato che appunto siamo in lotta, perché poi ci stanno succedendo continuamente comunque cose così, cioè non si sono fermati, è incredibile. No, ma difatti il vostro modello è un esempio da diffondere, cioè un po' il lavoro che fate voi e la diffusione che vediamo di fare noi in radio è proprio un modello estensibile un Bosco po' Navigli, ma per esempio il Bosco Navigli era un'altra delle nostre lotte. Noi attraverso, vi ricordo, la rete dei comitati, dove certo. che appunto raccoglie tutti i comitati milanesi e anche metropolitani che hanno delle istanze di questo tipo. Quindi chi è interessato può anche contattarci attraverso la rete dei comitati se ha bisogno di aiuto nel mettere in atto azioni, insomma, o vuole confrontarsi, eccetera. Noi anche con la rete dei comitati facciamo praticamente settimanalmente delle riunioni. Quindi, direi insomma, perfetto. C'è una rete, le situazioni non sono abbandonate, si possono mettere in rete e chiaramente diventano più forti. Da due settimane infatti sto guardando i cartelli io. Quelli dei lavori. Anch'io mi sono messo sempre mezzo tentato. Anch'io mi sono messo a guardare i cartelli dei cantieri a vedere se c'è scritto tutto. Se avete delle segnalazioni, mandatecele, che la nostra campagna Occhio al Cartello è sempre attiva. Ragazzi, rinnoviamo a tutti questo. Ascoltate. Allora, giardiniera, grazie del tuo intervento, è sempre splendido avere a che fare con voi. Grazie a voi ragazzi, è stato sempre un piacere. E noi per staccare è anche nostro, gran piacere. Sì. Comunque continuiamo a diffondere, ci risentiremo su questi schermi, come dicono. E adesso mandiamo del sano heavy metal per spezzare tutto. Abbiamo bisogno di energia, perfetto. Ciao giardiniera. Ciao. Ciao, buona serata ragazzi, a presto. Processo denominato Eternit Bis ritorna in appello. Mercoledì alla quarta sezione penale della Cassazione, dove era giunto al suo terzo grado di giudizio sul processo. La sentenza con la quale la Corte d'Assise d'Appello di Torino aveva condannato a 9 anni e mezzo Steven Schmidheyen. Capito. Penso di averlo detto giusto. Cosa è successo? Steven Schmidt è il padrone della multinazionale, 78 anni, era condannato a 9 anni e mezzo. Lui produceva amianto, sostanzialmente, è uno di quei famosi produttori che si è fatto soldi. Una personcina a modo. Una personcina a modo che se la cava per l'ennesima volta. Perché? Perché la sentenza sostanzialmente non è stata tradotta in tedesco. E quindi il cittadino svizzero afferma di non conoscere il tedesco, nonostante ci sono più contratti che insomma non hanno voluto tradurre perché non ritenevano necessario, però a quanto pare con questo cavillo legale niente, non è andato oltre il danno, la beffa. Ha presentato il ricorso e gliel'ha accettato, gli hanno accettato, e quindi slitta ancora questo processo, che è uno dei tanti processi, uno dei 390 casi iniziati per l'Eternit, 91 vittime, 91 diciamo la punta dell'iceberg. E questo è nominato Eternit Bis perché c'è stato un primo processo che era stato allora ancora archiviato perché, insomma, diciamo che era stato per disastro ambientale e non hanno riconosciuto il disastro ambientale perché non c'erano delle prove oggettive, dicono. Quindi, è una vergogna. Quindi questo è per omicidio volontario sostanzialmente. Il timore di tutto ciò è che in caso di condanna, tralasciamo sull'età del 78 anni, che magari poi insomma troppo vecchio per andare in prigione, eccetera, eccetera. Però c'è anche quella famosa clausola che non puoi essere processato due volte per lo stesso motivo, capito? Quindi potrebbero addirittura attaccarsi a questa. A questa clausola, questo per attaccarci alle brutte persone che distruggono Milano E dopo i bulldozer che ci dicevano di usare il nostro cervello. E viene da lontano sta cosa, sentiamo un po' il terreno fertile di questa roba qui, da dove viene, per esempio. Ciao a tutti. Ciao. Allora, ben trovati al nostro appuntamento settimanale degli Incoerenti Anonimi. Come sapete, questo è uno spazio condiviso e protetto dove non dovete avere paura di esternare le vostre incoerenze. Allora, c'è qualcuno che vorrebbe cominciare? Vabbè, posso cominciare io? Prego. Ciao, sono il PD. Ciao PD. Sentiamo, PD, quali sono le vostre incoerenze? Vabbè, noi diciamo che vogliamo cambiare i decreti sicurezza e poi non li cambiamo. Diciamo di non voler governare con la Lega e poi ci governiamo. Diciamo di voler fare lo ius soli e non lo facciamo. Sì, bene, sono tutte cose che dici sempre, però proviamo a guardare il quadro più generale. Qual è la vostra più grande incoerenza? Dai, ce la puoi fare. Ah sì, che diciamo di essere un partito di sinistra e poi invece non lo siamo. Bravo PD! Bravo, bravo, bravo, bravo PD, bravo PD. Vi abbiamo trasmesso in diretta In Zaire con San e dopodiché, come già accennato da Belluno, Bulldozer con Use Your Brain, il fuoriquota di Pillola Rossa. Featuring Kiko Loureiro. E ci sono fatto così, non ci puoi far niente, prendimi pure così, come mi accetta la gente che mi ferma, mi sorride, mi fa parlare e poi non mi senti. Pierangelo Bertoli, ciao! Senti, io mi sono rotto il cazzo. Dimmi che cosa sta succedendo qua dentro. Parla piano che ci sentono. Ma chi? Chi ci sente, oh? Non ti sei accorto che qui è tutto molto colorato? Sì. tutto fintamente bilanciato? Questo non è il mondo reale, Mauro. Tu sei un personaggio dentro una serie. Ma che cazzo dici? Sì, la serie dell'algoritmo. Qui è tutto finto, quelli non sono i tuoi veri amici. Qua non c'è nulla di reale, se non la realtà dell'algoritmo. Ma l'algoritmo non interessa sapere chi sei, né sapere dove hai vissuto, come hai vissuto. Non interessa raccontare la tua storia, ma solo sapere se la tua storia è raccontabile. Ma raccontabile a chi? Ma come a chi, Mauro? Dai! Al pubblico, al target di riferimento. Vabbè, ma la storia, la verosimiglianza. Ma quale verosimiglianza, Mauro? Oggi vanno i like, i numeri, i trend. Senti, ma tu come ti chiami? Rainer! No, dai, oh, come ti chiami? Alberto. Alberto, ci sarà un modo per uscire di qua, ti prego. Taino. Nella lingua degli indigeni dell'isola Guanahani sta per uomo onesto, galantuomo. Sono tutti galantuomini, i selvaggi che, stanchi per una giornata di caccia, di raccolta e di pesca, si riposano sotto le palme attorno ai falò che hanno acceso sia per riscaldarsi sia per tenere lontani i moscerini e le zanzare. È la sera di giovedì 11 ottobre 1492, ma essi non lo sanno. Non sanno neppure che quello che è appena finito è l'ultimo giorno di libertà. Il giorno dopo sbarcheranno le lame di Toledo, la polvere da sparo, l'acquavite, insieme con la superbia, il pudore, l'ipocrisia, la cupidigia. Sbarcheranno i cristiani. Rimangono. Bentornate dalla vostra Stefi Makeup, il tutorial di cosmesi più seguito in Italia. Allora ragazze, dopo il tutorial andato benissimo grazie su come combattere le occhiaie, oggi ci occupiamo di una questione un po' particolare che attanaglia tutte noi donne: le violenze domestiche. Oh, io pensavo che queste violenze fossero fatte, che ne so, dai tunisini, dai congolesi, dagli egiziani. Invece pensate che pare che nella maggior parte dei casi siano i fidanzati, gente della famiglia. Oh amiche, non si finisce mai di imparare, veramente. Comunque, le brutte litigate capitano, che ne so, magari la pasta vi esce scotta, il ragù troppo salato, oppure avete messo quella minigonna un po' troppo corta, un po' da zoccola, che ci sta, ci mancherebbe altro. Però non è che poi possiamo lamentarci se il maschio gli parte la brocca. A proposito, per i maschietti pochi, male male che non mi seguono, picchiare è brutto. Dai, non fatelo, se potete. Ma quando succede, ragazze, qual è la cosa peggiore? Che magari andate dal macellaio, dall'estetista, dal fornaio, tutte gonfie, piene di lividi, e loro vi dicono: ah signora, ma che vanno fatto? Ammazza, come state messe? Vanno menato? E voi: no, ma sbadata io, sono caduta dalle scale. Però, amiche mie, una, due, tre volte, però non è che potete cadere dalle scale tutte le volte che il vostro maschio vi mena, eh. Ma per fortuna ci ha pensato la Stefi vostra. La soluzione si chiama Livid Stop, il fondotinta ultra coprente studiato appositamente dal laboratorio Epicorp, che copre perfettamente lividi e tumefazioni. Questo è il prodotto perfetto per la donna che se la va un po' a cercare, eh? Poi pensate, l'applicazione è molto semplice: due dita di prodotto per coprire una manata. Ve lo linko dallo store Epicorp. E solo per oggi, amiche mie, solo per oggi, in omaggio col mio codice sconto, il mascara waterproof, che resiste a ogni momento di malinconia. Mannaggia, magari non vi mena, ma vi ha fatto piangere tanto tanto? Non vi preoccupate, con questo mascara sarete perfette anche in queste spiacevoli situazioni. Io vi mando un bacio grande, Stefine. Al prossimo video. Ciao. Allora, i poveri non sono solo la palla al piede per lo sviluppo dell'umanità, sono la feccia. Il povero non conta socialmente, il povero non avrebbe nemmeno diritto di voto per quanto mi riguarda, per non parlare di tutti questi extracomunitari che vengono veramente a deturpare e a impauperire il nostro territorio. E io sono stufa di tutti questi poveri che dobbiamo mantenere noi, compreso anche gli handicappati. Però gli handicappati è un altro discorso. Per quanto riguarda questi poveri, assolutamente è la feccia sociale. Il povero, a mio avviso, non dovrebbe respirare nemmeno la nostra aria. Pillola Rossa, l'unico programma che fa vedere la verità. Watch out! per la rubrica che c'è in giro. Allora, quello che abbiamo trasmesso, ovviamente, gli urlatori genovesi dei Kafka, paghi morte. Prima i rossa con fango, giusto per, e bugo con non lo so. Esatto. Piccolo riassunto, quindi, cosa c'è in giro? Allora, è tutto più o meno scandagliato in giovedì, venerdì, sabato. Allora, giovedì, in conchetta, c'è il cabaret astrologico di Astrunza. Venerdì, sempre in conchetta, c'è l'ottone pesante coi Fontra, perché volevamo trasmettere stasera, ma insomma non ci rispondono. Quindi sabato invece, per la rassegna di Materia Oscura volume 11 al Circolo Gagarin. Qui siamo più a nord, dalle parti di Bussarsizio, giusto? Sì, Bussarsizio. Ci sono i Sacri Suoni con gli Hyperwolf. Promettiamo che li mandiamo nelle prossime puntate del Sacro Metal Italicus. Mi sembra una cosa onesta e giusta. E ricordo anche giovedì al Sound Benessere, nella Libera Repubblica di Boffalora, ci sarà la proiezione del film La Capa Gira. Urca. Ore 20 e 30. Bene. Secondo me possiamo bypassare altri ipotetici eventi e lasciare spazio a, insomma, ai figli degli altri. Ai figli degli altri? Sì, sì. Prima sentiamo due cose sullo stretto, quello stretto, quello che mi va stretto. C'è uno stretto. Ah, quello stretto, stretto che quello qualcuno stretto. Dice che è largo. Sì, qualcuno dice che è largo, però è stretto. Però vabbè, è stretto. Scusa, qua ce l'abbiamo. Qua. Non ti tocca, lo difenderemo con la lotta. Di Messina non si tocca. Semplicemente non serve un'opera così, impoverisce, aggredisce il nostro territorio. Penso che è importante essere, dare voce a chi non è d'accordo. Ma io penso che semplicemente quest'opera è irrealizzabile. Si è messa in moto questa macchina, anche mediatica, perché magari da subito dà la possibilità di spendere, di attirare gli interessi del grande capitale, senza fare nulla. Quando viviamo in un periodo in cui, ad esempio, sulla spesa della sanità, quanti ospedali si potrebbero fare? E di quello abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di un'opera che devasta uno dei luoghi più belli del Mediterraneo. L'opera pubblica più grande l'ha fatta la natura. Mezzogiorno, sono ancora sul letto, 9 anni di università. Forse pretendevi un figlio perfetto, ieri ho fatto anche arrabbiare papà. Mio fratello c'ha una casa editrice e io mangio ancora a scocco da voi. Non so fare neanche una lavatrice, giorno e notte davanti alla play. Sì, lo so che i figli delle tue colleghe sono tutti laureati ormai. Sì, lo so che mio cugino Raffaele ha un'azienda sua a Dubai. Ma non mi parli mai di zia Claudia che c'è il figlio che spara, del nipote di Gaetano che ruba, delle figlie dei vicini che battono all night long. Tu pensa se in faccia avessi anche un tatuaggio, non penso che ti piaccia, sarebbe stato peggio, no. Ma gli esami non finiscono mai, lo diceva persino quel tale. I rotoloni di carta strutturati a nido d'ape. Sì, lo so che mia cugina Elisabetta ha già fatto 4 figli ormai. Sì, lo so che prendo ancora la paghetta e la spendo tutta quanta alla SNAI. Ma non mi parli mai di zia Claudia che c'è il figlio che spaccia, del nipote di Gaetano che ruba, delle figlie dei vicini che battono all night. delle tue colleghe sono tutti laureati ormai. Sì, lo so che mio cugino Raffaele ha una villa sua alle Hawaii, ma non mi parli mai di zia Claudia che c'è il figlio che spaccia, del nipote di Gaetano che ruba, delle figlie dei vicini che battono all night long. Tu pensa se in faccia avessi anch'io un tatuaggio, non penso che ti piaccia, sarebbe stato peggio, no, stato peggio, no, sarebbe stato peggio. Allora ragazzi, dopo di noi torna Ulisse De da Livorno con il suo programma Contro tutti. Ah, De e Arebois e con Storto, tutto quello che può andare storto in una programmazione musicale, insomma, così ho percepito. Sì, è una roba, penso, di pop un po' storto, diciamo, poi tanto adesso ci spedisce il messaggio che ci dice che abbiamo Ulisse sbagliato in ogni caso, tutto come al solito, anche sbagliando grande lo Lu, salutiamo lo stesso, bella, che bella Ulisse, in un ritorno c'è attesissimo, una clac qua, già non ci sono stati genovesi oggi, quindi c'era, cioè, Radio Cavedio, mancava pure Radio Ulisse, questo no, cioè. Comunque abbiamo trasmesso I Rossa con Fango, Kafka, Paghi Morte e Valerio Lundini con questa canzoncina. Valerio Lundini e gli? I figli degli altri. No, Valerio Lundini, no. E? Gli I e I Vazzanicchi. E scusate, non ho visto, non avevo visto sottotitoli. Era Valerio Lundini e I Vazzanicchi. Scusate, esatto. Chiedo scusa I Vazzanicchi. Ecco, vai, vai. Ci siamo, un attimo che ci sono problemi tecnici in trasmissione, ci hanno tagliato un attimo dalla... Vogliamo mandare un attimo... Aspetta perché non siamo in diretta, siamo in differita, sì, vai. Avete sbagliato tutto a cominciare l'accento che si dice De e si dice Arebur, comunque il pop storto, per capirla bisogna ascoltarlo. Allora ragazzi, siamo sul pezzo, qui non scappa Io l'aspettavo, nessuno. Esatto, ed era quello, e d'altronde insomma siamo sempre un po' dei bocciati, no? No, non scappa nessuno. Ma torniamo nel torbido di questo stivale, questo paese a forma di scarpa, se ci potete mandare un attimo. Noi vogliamo presentarvi il nostro programma, sì. e anche proporvi un'alleanza. Sì, per fare più gruppo, per... Sì, insomma, la coesione. Sì, per stare coesi, anche consapevoli che siamo una minoranza, però potremmo aprire quegli orizzonti che magari non sono ancora... Dai, su, veloce, che mi sono già rotto il cazzo, Su. Okay, questo è il nostro programma. Eccolo qua. Allora, acqua pubblica. Sto cazzo. No a nucleare e trivelle. Sto cazzo. Eliminare Jobs Act e voucher. Col cazzo. Maggiori investimenti nelle energie rinnovabili. Sto cazzo. Diminuire le spese militari? Sto cazzo. Più tutele e più diritti per le donne? Sto cazzo. Bravissima. Sushi dopo? Sì, volentieri. Beh. E in generale più sinistra e più democrazia all'interno del partito. Posso dirlo io? Prego. Sto cazzo! Camana Cucchiara. Comunque ragazzi, grazie di essere passati, Poi magari un accordo lo troviamo. E mi raccomando, rinnovate la testa del partito per il 2026. Scusate, ma almeno una caramella la possiamo prendere? No! Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. M'han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3. E ho messo nel letto i lenzuoli più nuovi, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, gli ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino. Se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli, e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, soltanto un furgone. Ma là dove stanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va di dare a nessuno la chiave del... Allora, questo qui dei poveri lo teniamo per la prossima puntata, così abbiamo già del materiale in più, perché ormai la redazione ha chiuso. Ma infatti io ci avevo fatto una domanda sui poveri, per cui perfetto. Intanto mettiamo in, com'è che si dice, in legnaia. Ecco, mettiamo questa in legnaia. Ciao! Io sono, cosa credo, un periodo un pochino depresso. Non riesco a pensare a viaggi, l'università, non sto dicendo per niente. Anthony Perkins, non studio, non mi applico. Il resto, caso questa umano, è la bile innervosita del paese. Allora ragazzi, ci sarà una rubrica di poesie, perché è arrivata in redazione una rubrica di poesie, era diciamo Schnell con due poeti, poi dopo sì, non c'è ancora un numero di telefono, ma ce l'avremo, potrete commentare in diretta. Per il momento Vi salutiamo, perché ci vediamo la settimana prossima, e questa è la prima tranche, pezzo e seconda tranche della rubrica di poesie. Au revoir. Anthony Perkins. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Fatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Oggi propongo un duetto, e qui con me il Nutrio Mannaro, che leggerà dei testi dell'epoca giovanile e qualcosa di più contemporaneo. Dapprima vi lascio ascoltare le mie poesie ispirate alla periferia sud-ovest di Milano. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. costruzioni periferiche. Come dura la vita di lunedì, dei palazzi gialli battuti dal sole, sopra le strade perse di periferia, nell'estate aggrovigliata di voci, in guerra dai volumi televisivi. Nelle tasche si stringono coltelli, piedi sui vetri luminosi, bangla notturni. Come graffia la vita il martedì, di palazzi rossi che bagnano gli orti del sangue dei morti. Morde la vita il mercoledì, di palazzi grigi sotto cieli di piombo, delle faide di quartiere, d'orizzonti scevri d'astri, di frammenti di città inquinate, stanche, affrante. Brucia il giovedì, nell'agosto ruggente, con la luna regina, che mostra il sorriso, poi diventa falce. Sospira la vita il venerdì, per quei sogni incappucciati che camminano solitari nel silenzio. Sfugge la settimana spenta, con il suono di bombe, in lontananza. Proteggimi, amore, dai fantasmi di ghiaccio che sotto il cuscino compaiono in un crocevia, circondano il letto, demoni con la coda di freccia, ci guardano e sfuggono via. Ecco, i sopravvissuti del sabato di feste, miraggi di felicità, serpenti di nuvole nel buio, incredulità. La domenica s'apre, l'aria soffia tra gli aquiloni, si infuocano i pensieri, lo sguardo nel vuoto solare, rivolto all'altrove, fumi di ricordi crudi. La nebbia della campagna. Avremmo camminato nella nebbia, tra le gocce di cristallo sospese, nell'alone mascherato dal colore impastato, alle periferiche strade improvvisamente campi. Avremmo camminato e ci saremmo persi ed ancora amati, perché l'amore non è mai scontato. Di grido bianco, canto sfumato d'anime lo sguardo, passi nel cuore del selciato, corse nel vuoto fino a sera, in una nuvola passeggera. Buonanotte dal vostro amico Nutrio Mannaro, che si aggira per le notti milanesi da 30 anni e che vi osserva e trae le sue conclusioni e vi augura una buona ascolto. A vi proibita, in un mare di giada, la tua bocca, si perde la mia testa torbida. Mi incollo al muro che creo. Perdonami l'innocenza perduta, non voglio niente, te esclusa. Il fumo sale al soffitto, involute dense annoiate, ferro e lingua, ricordi? Tempo perduto. Cerchi sempre di prevedere tutto, non riesci mai a prevedere niente. Cerchi concentrici più piccoli e stretti. La strada è uno specchio a volte, il volto di pietra e di pietra, il mondo che va verso la tazza del cesso. Pietro è pronto a tirare la corda, ti aggrappi alla carne, al piacere. Tutto è vuoto, ti disperi. Tutto vuoto. Buio sulla strada e ingoia pezzi del mio corpo, non riesco a vedere neanche fra 10 secondi. Fuoco vuoto, fioco fuoco vuoto, in un vicolo buio e vuoto fuoco fioco. Poco dopo, un unico fuoco, due anime, un gioco. Più tardi, vuoto vuoto vuoto, poco fuoco fioco. È uno scempio che sia così nero l'orizzonte. Ad esempio, Acheronte, n'è vero, davvero, di nero mi avvero. La redazione non si assume nessun rischio per quanto riguarda le controindicazioni, ma il più venire con il loro è trovato. Un soffio di aria gelida ha scacciato d'un tratto la maledetta bolla africana. È arrivato l'autunno, la tua stagione. I colori cambiano e la natura si prepara a riposare, si stiracchia, nelle sfumature pastello dei rossi e dei gialli, nei grigi dei cieli meteoropatici come te. Ma non avere paure, dopo il sonno dell'inverno, che segue all'autunno, tornerà la primavera, per noi uomini fragili. Ragazzi, ciao, ciao a tutti, vi salutiamo con l'eco, il riverbero e cose del mare. Vorremmo essere di più, ma...